Sembra spon una bagneta, penso che ora è stata al ca. C'ho la gata, non l'hai vista, ni sentita a miulà. Che si c'ho il bocca attrappà, alla nigu, nigu, nigu. Che si c'ho il bocca attrappà, però come la spagherà. Sense llit, sense sopar, per l'ofici és el secar.